Matilde aveva pregato per tutto il viaggio, mentre valicava le Alpi, cercando con Patrizio il modo migliore per affrontare il suo destino nella via d'amore, trovando del buono in tutti i figli di Dio. Aveva fatto voto di vivere secondo quei principi, aveva intenzione di tenere fede alla promessa il più possibile, ricordandosi sempre che non era una santa e non aveva intenzione di diventarlo. Ah, benedetta la pazienza di Patrizio, che senza dubbio lei aveva messo a dura prova durante il lungo viaggio dalla Toscana. Ma quando erano arrivati a Verdun, Matilde ormai era prontissima ad avvicinarsi al gobbo in modo amorevole. Sperava davvero di poter instaurare con lui un rapporto di amicizia. E se il giovane Goffredo fosse stato un brav'uomo, un valido interlocutore, magari un discreto scacchista, avrebbe potuto persino imparare ad amarlo. Purtroppo capì subito che non sarebbe andata così, anche se doveva ancora affrontarlo alla scacchiera, era certa che non possedesse le prime due qualità. Fondamentalmente quello che stava facendo il gobbo non era meglio di ciò che avrebbe tentato di fare Enrico se lei non si fosse sposata, ossia avanzare pretese sui suoi possedimenti e rivendicarne la proprietà, calpestando i suoi diritti e imprigionandola nel gelido nord. C'era davvero differenza. Lei non la vedeva, almeno non avrebbe dovuto dormire con Enrico o mangiare insieme a lui, dunque in che senso questa situazione era migliore? Convocò la madre e il patrigno per porre loro questi interrogativi. Anche se la sua salute era in rapido declino, Goffredo era pur sempre il duca di Lorena, un uomo che aveva fatto da mediatore per il papato e governato in diversi regni. E amava con tutto il cuore Matilde. Si preoccupava della sua felicità e della sua sicurezza. Matilde illustrò il caso con una logica così schiacciante che né la madre né il vecchio Goffredo poterono addurre con prontezza un valido motivo per cui lei avrebbe dovuto acconsentire al matrimonio. La cosa stava degenerando in una crisi ed era chiaro che il patrigno sofferente cominciava ad accusarne il peso. Goffredo chiese a Matilde di dargli qualche giorno per trovare una soluzione e fare una seria chiacchierata con il figlio. Matilde aveva un altro quesito da sottoporgli. Perché i servi di Goffredo mi guardano come se avessi due teste? È il colore dei miei capelli che li terrorizza tanto? Goffredo spiegò a Matilde come fosse noto che solo le donne della dinastia avevano le sue caratteristiche fisiche, pertanto tutte le donne con i capelli di quel colore erano considerate eretiche. Nelle precedenti generazioni le accuse di eresia erano sfociate in quelle di stregoneria, un reato che comportava la condanna a morte. Quando ero ragazzo, parecchie donne che non avevano commesso alcun crimine se non quello di avere i capelli rossi vennero torturate, mutilate e mandate a rogo nella piazza cittadina dopo aver sopportato l'umiliazione della sfilata, uno spettacolo che per fortuna da allora è stato bandito dalla legge nella Lorena civilizzata. Matilde non era sicura di volerlo sapere, ma lo chiese comunque. Sfilata? Goffredo aggiunse qualche particolare. Una donna dai capelli rossi con le catene ai polsi e ai piedi al collo veniva costretta a camminare nuda mentre gli abitanti del villaggio le lanciavano addosso pietre, verdure, marce. Veniva denudata affinché tutti vedessero che il colore che la contraddistingueva era presente anche nelle parti più intime del suo corpo. Quella era considerata prova di stregoneria, poiché era stato decretato che l'unica causa di quella innaturale caratteristica fisica era l'unione carnale con il demonio. Matilde rabbrividì davanti a tanta ignoranza e pregiudizio. La predisposizione genetica che una volta indicava l'appartenenza di una donna all'alto lignaggio di Gesù e Maria Maddalena era diventata una pericolosa maledizione. Si era trasformata da marchio di guaritrice e profetessa in riprovevole marchio di strega. Purtroppo le classi contadine sono ancora molto superstiziose e pertanto i servi sono estremamente incuriositi. Oltre che leggermente intimoriti da te, avrei dovuto avvisarti forse, ma sono stato lontano per parecchio tempo e speravo di notare maggiori progressi una volta tornato in patria. Goffredo sospirò, ma poi si ricompose, cambiando in fretta argomento. Parlerò con mio figlio e sistemerò tutto. Quindi incoraggiò Matilde a esplorare le verdeggianti terre della Lorena, prima che arrivasse l'inverno e facesse troppo freddo, sapendo che uscire a cavallo avrebbe migliorato il suo umore. E anche se non era in Toscana, avrebbe potuto scoprire che c'era tanta bellezza da amare in quella parte del mondo. Matilde lasciò i genitori e andò a cercare Patrizio. Gli disse di prepararsi per uscire a cavallo, il mattino dopo per avventurarsi alla ricerca della Valle d'Oro. Era per quello che era andata fin lì, dopo tutto. No? Matilde era felicissima quando cavalcava. Stava attraversando un bosco lussureggiante con i capelli che fluttuavano al vento, senza la costrizione dell'orribile sogolo che si era strappata di dosso senza troppe cerimonie non appena si era allontanata da Verdun. Suo malgrado doveva riconoscere che il posto era bello, faceva freddo, questo sì, e di certo non era la Toscana, ma aveva una certa magia naturale. Patrizio era al suo fianco, gareggiava con lei, la stuzzicava e perdeva. Matilde era imbattibile a cavallo. Era talmente intrepida da essere quasi spericolata, ma era anche assai abile. L'unica cosa che poteva dire in favore del gobbo era che sapeva scegliere i cavalli. I loro esemplari erano belli e vivaci, dotati di incredibile resistenza. Avevano corso parecchio, decisi ad addentrarsi nel bosco il più possibile alla ricerca della Valle dell'Oro, il luogo che era apparso a Matilde nella sua visione. Fino a quel momento c'era una grande abbondanza di paesaggi verdi, ma non aveva ancora trovato la sorgente d'acqua. Nel pomeriggio Matilde cominciò ad avere i brividi. Era una sensazione strana, quasi indescrivibile, perciò rallentò l'andatura del cavallo e si abbandonò a quell'esperienza. Era come se si trovasse al crocevia del tempo. Aveva la sensazione surreale che passato, presente e futuro si incontrassero tutti all'improvviso. La cosa la faceva sentire un po' frastornata, eppure era eccitante. Quando la sensazione scemò, spronò il cavallo ad accelerare di nuovo. Patrizio la seguì e, dopo aver preso una curva, si fermarono di colpo quando si trovarono davanti un piccolo stagno. Era lì, proprio come nella visione, uno stagno alimentato da un torrente dove poter abbeverare i cavalli. Smontarono da cavallo. E Patrizio si offrì di condurre gli animali al torrente, lasciando che Matilde si incamminasse da sola verso la radura. Fino ad allora era tutto come le era apparso nella visione. Un cigno bianco le passò accanto, silenzioso, voltandosi appena verso di lei come per dire «Seguimi». E poi Matilde la sentì, la voce della bambina in lontananza, udì la risatina mentre si avvicinava alla radura. I raggi del sole pomeridiano scintillavano attraverso i rami e si riflettevano sulla superficie dell'acqua proprio davanti a lei. Si avvicinò, già sapendo che si trattava di un pozzo. Quando si sporse in avanti per guardare nell'acqua, Matilde era convinta di scorgere un abisso smisurato, che quel pozzo fosse davvero sacro e che sprofondasse nel terreno. C'era qualcosa di magico in quel posto. Il bosco era antico, primordiale. Un luogo con un grande potere naturale. Sarebbe stata l'ubicazione adatta per il loro monumento all'amore e alla saggezza. Quando immerse con delicatezza le mani nell'acqua scura e gelida, Matilde all'inizio non si accorse che il suo adorato anello d'oro con il sigillo di Maria Maddalena si stava sfilando e scivolò così all'improvviso che poté solo guardare inorridita il suo tesoro che affondava nell'abisso del pozzo. Matilde gridò. Ah! Inginocchiatasi accanto al bordo di pietra del pozzo, cercò nell'acqua sperando di riuscire a intravedere l'anello, ma non c'era speranza. Dopo essersi rialzata, rassegnata, scorse un luccichio improvviso nell'acqua. Splash! Un pesce gigantesco, una specie di trota dalle scintillanti squame dorate, balzò fuori dal pozzo, quindi si rituffò nell'abisso. Matilde aspettò per vedere se quel pesce straordinario sarebbe tornato. Un altro spruzzo fendette l'acqua e la trota balzò di nuovo nell'aria, stavolta come se si muovesse a rallentatore, e dalla bocca del pesce fuoriusciva il suo prezioso anello. Matilde restò senza fiato quando il pesce si voltò verso di lei, muovendosi sempre a rallentatore. Lasciò andare l'anello e lo fece librare nell'aria verso di lei. Matilde tese la mano e l'anello le atterrò sano e salvo sul palmo aperto. Strinse forte il pugno e se lo portò al petto, grata che fosse stato recuperato dal magico pesce che subito dopo si ritirò nelle profondità del pozzo. L'acqua si calmò e ancora una volta la magia svanì. Dopo essersi rinfilata l'anello alla mano destra, Matilde scrutò attentamente nel pozzo un'ultima volta per vedere se poteva accadere qualche altro miracolo in quel luogo eccezionale. L'acqua era calmissima, ma a un certo punto una minuscola increspatura turbò la superficie. Un'onda di luce dorata cominciò a diffondersi nel pozzo e nella zona circostante. La luce del sole sembrava fluttuare, come se oro liquido si riversasse dal cielo, indorando tutto ciò che si trovava nel campo visivo di Matilde. Ben presto la valle fu inondata da fiumi d'oro, gli alberi ne furono ricoperti. Tutto intorno a lei brillava dell'intensa e calda luce del metallo allo stato liquido. In lontananza sentì la voce della bambina, quella che, come sapeva, apparteneva alla loro piccola profetessa, Sara Tamar. Benvenuta nella Valle dell'Oro! Matilde sentì qualcuno ansimare dietro di lei, si voltò e vide Patrizio che si avvicinava, estasiato dalla stessa visione della magica Valle Dorata. Durò quanto durava di solito una visione, qualche secondo, qualche minuto. Era impossibile dirlo, ma alla fine la luce dorata svanì, come era giusto, e i due si ritrovarono impalati nella grande foresta verde. Era confortante aver condiviso una visione del genere con un amico fidato. Patrizio ormai faceva parte della profezia tanto quanto Matilde. Si scambiarono un abbraccio fraterno, il gesto affettuoso e innocente compiuto da due persone che si amano nel più semplice dei modi. Avrebbero potuto essere davvero fratello e sorella di sangue, insieme giurarono di costruire la più grande abbazia d'Europa in quel luogo. Un santuario, una biblioteca e una scuola, tutti dedicati alla via dell'amore. Vi avrebbero custodito il tesoro più prezioso dell'umanità e l'avrebbero chiamata Orval, perché quella sarebbe diventata davvero la Valle d'Oro. Matilde ritornò a Verdun euforica quella sera. Si ricordò persino di rimettersi l'odiato sogolo e di coprirsi i capelli, che avevano un aspetto più sconveniente del solito dopo una lunga giornata di impegnative cavalcate. L'aspettava una convocazione urgente da parte di sua madre e del suo patrigno. Doveva recarsi nelle loro stanze a suo ritorno. Sentì un tuffo al cuore. Pregò che la salute di Goffredo non avesse subito un repentino peggioramento mentre lei era via. Dopo essersi tolta di dosso l'odore di cavallo e aver indossato abiti più consoni, percorse svelta il lungo corridoio che conduceva alle stanze del patrigno. Entra, cara, entra. Tirò subito un sospiro di sollievo, anche se Goffredo aveva il viso tirato e pallido, era seduto alla sua scrivania. Non lo trovava così bene da settimane. Forse gli ultimi 2 giorni di trattative con il figlio gli avevano restituito un po' del suo spirito politico. Fu Beatrice a parlare subito dopo. Il tuo patrigno ha faticato tanto per arrivare a un accordo che giovasse a tutte le persone coinvolte. Salverà la Toscana per te e salverà la faccia a Goffredo il giovane. Ti proteggerà anche dalle conseguenze bizzarre e illegali con cui Goffredo ti ha minacciata. L'anziano Goffredo continuò: Mio figlio ha consentito a firmare un documento in cui si stabilisce che vanterà diritti sulla Toscana solo a patto che sia sposato con te. Se decide di ripudiarti per qualsiasi motivo, perderà tutti quei diritti. Inoltre tu hai il diritto di lasciarlo e di ritornare in Toscana se usa modi violenti con te e per motivi legali ben precisi che verranno illustrati con cura nel documento. Ti viene anche riconosciuto il diritto di visitare la Toscana ogni anno e di provvedere all'amministrazione dei tuoi possedimenti in quell'occasione. Matilde era allibita. Un accordo del genere era senza precedenti, ma Goffredo conosceva bene la legge e senza dubbio ne aveva verificato la fattibilità. Di certo era un'alternativa migliore dell'andare in guerra contro Enrico e contro il gobbo per poter conservare la propria eredità. Ti sembra accettabile, figlia? Mentre annuiva adagio, Matilde considerò in modo strategico la posizione in cui si trovava. Era una posizione forte. Decise di spingere ancora un po'. Oggi ho avuto una visione mentre ero nella foresta. Desidero costruire una grande abbazia lì e dedicarla alla gloria della Madre di Dio con Patrizio come abate. Come regalo di nozze voglio chiedere al giovane Goffredo di fornirmi le risorse necessarie a costruire un simile monumento. Per quanto sia Goffredo il Vecchio sia Beatrice sapessero benissimo a chi sarebbe stata dedicata in realtà l'abbazia e quale sarebbe stato il suo vero scopo, nessuno dei due trovò opportuno sollevare obiezioni. Se costruire un'abbazia per l'ordine nella foresta poteva aiutare Matilde a rassegnarsi al suo destino, ossia sposare un gobbo e restare in Lorena, allora avrebbero dato il loro assenso. Forse diventare patrona di una grande abbazia avrebbe giovato anche alla reputazione di cui Matilde godeva da quelle parti. Correvano già alcune maldicenze sul suo conto, ma una duchessa che era tanto devota al Signore, alla sua Santa Madre, da dedicare tutte le ore della giornata alla costruzione di un monumento in loro onore, non poteva certo essere una strega. Il patrigno le sorrise con un pizzico della sua vecchia vitalità. Sono certo che mio figlio sarà più che disposto a fornirti i fondi necessari per un progetto così ragguardevole. Allo stesso tempo sarà felice di vedere che sua moglie è una donna pia e una cattolica esemplare. Con un profondo inchino, Matilde ringraziò i genitori per la loro generosità e si ritirò nelle sue stanze. Non era affatto uno scenario perfetto, ma poteva imparare a conviverci e soprattutto era nella condizione di poter cominciare subito la costruzione del monastero che avrebbe battezzato Abbazia di Nostra Signora di Orval. Avrebbe adempiuto ai propri doveri di attesa, proprio come aveva mantenuto la promessa fatta al volto santo. Niente era più importante. Sia fatta la tua volontà. Matilde sussurrò mentre ripercorreva il freddo corridoio di Verdun, gli occhi levati al cielo. Cercò Patrizio per riferirgli la buona notizia riguardo al suo nuovo incarico ufficiale, diventare abate di Orval. Patrizio supervisionò il progetto iniziale e la costruzione dell'abbazia con l'aiuto degli anziani consiglieri benedettini di Goffredo. Matilde naturalmente venne consultata per tutte le questioni principali. Furono inviati dei messi a Lucca per informare Isabella e il maestro, che avevano trovato con successo la Valle dell'Oro e che i monaci della Calabria, che avrebbero iniziato la trascrizione del Libro Rosso e delle altre storie, dovevano prepararsi a trasferirsi al nord entro l'estate del 1070. Matilde teneva uno scrigno d'avorio intarsiato nelle sue stanze. Il padre gliel'aveva regalato quando aveva compiuto 6 anni. Era un oggetto per lei assai caro perché recava lo stemma del ramo lucchese della famiglia, quello di Sigfrido, raffigurato con pietre semipreziose. Dentro lo scrigno custodiva un altro dei suoi oggetti personali più amati. Era la pergamena legata dal nastro di raso scarlatto che conteneva il disegno della rosa a 6 petali fatto dal maestro. Dopo aver preso il rotolo di pergamena dallo scrigno, Matilde lo portò nella sala per le assemblee dove Patrizio stava conversando con gli architetti. «Voglio realizzare una finestra con questo disegno», annunciò, srotolando la pergamena per mostrare il simbolo. Voglio che la luce del giorno risplenda attraverso i petali della rosa e illumini il pavimento. Sul pavimento deve esserci un labirinto. Patrizio sa quale forma dovrà avere. Il disegno del labirinto fatto da Salomone e le istruzioni per costruire i suoi 11 passaggi circolari che conducevano verso il centro erano contenuti nel libro rosso. Sarebbe stata una bella sfida per i muratori perché ne voleva uno sia dentro le mura sia in giardino. Ma Matilde non aveva finito di assegnare loro compiti difficili. Ho fatto un sogno su come sarà la navata. Deve essere l'edificio più elevato della Lorena, degno dei tesori che custodirà. Non sono molto abile nel disegno, ma nel sogno l'ho vista chiaramente e cercherò di farvi uno schizzo. Matilde prese la penna dal mastro architetto e cominciò a tracciare le linee del futuro edificio, mentre Patrizio sorrideva, compiaciuto per la sua falsa modestia. Matilde era piena di talento per il disegno architettonico e aveva preso le lezioni sul Tempio di Salomone più in fretta e con più minuziosità di lui. Spiegò all'architetto: «È mio desiderio che questi grandi archi acuti siano altissimi e sorretti da colonne di marmo dorato. La navata dovrà essere lunga, con molte colonne, molti archi. Sarà un monumento alla gloria divina e a quanto si può realizzare in nome dell'amore, di conseguenza deve essere maestoso». L'architetto annuì, sgomento, alla futura duchessa di Lorena. Quella donna aveva un incredibile talento per il disegno e padroneggiava naturalmente le leggi architettoniche. Quella che proponeva era una sfida ardua che, tuttavia, aveva studiato nei minimi dettagli. Quando Matilde ebbe finito, ormai l'architetto era convinto di aver compreso la sua visione e il suo grandioso progetto: costruire la più imponente abbazia del Nord Europa.